Allora, esami, benvenuti alla nuova puntata di Extra Extra. Se non ho perso male il conto, questa dovrebbe essere la decima tappa ed è una nuova puntata dedicata alla volata. In realtà avevo un altro contributo così in programma per questa rubrica, ma ho deciso di rinviarlo a domani perché, come ormai avrete capito, quando c'è una bella volata mi fa piacere rivederla insieme a chi mi ascolta, se ne avrete voglia di rivederla insieme. E nell'occasione precedente era stata per la vittoria di Cavendish, questa volta è perché è una volata particolarmente bella e quindi andiamo a rivederla e domani ci ascolteremo il contributo che avevo pensato per la puntata di oggi. E volata vinta da Jasper Philipsen, insomma l'avrete già visto e rivisto, e in TV giustamente anche si è parlato di una vittoria di rabbia e capisco che Philipsen avesse qualcosa che gli bolliva dentro, no? L'ho anche detto che mancava la vittoria in queste prime tappe, però in realtà quella che abbiamo visto quest'oggi è una volata che è figlia soprattutto di uno straordinario lavoro precedentemente della squadra, di un lavoro di studio, di una programmazione, come ha detto lo stesso Philipsen, e di un'esecuzione al limite della perfezione. Mi verrebbe da dire sicuramente la prima volata perfetta di questo tour da parte di una squadra, per certi versi potrei dire che anche la prima di tutta la stagione, ma non ho una memoria così profonda. La cosa che mi interessa in questa volata è vedere come è stata preparata, come è stata studiata, quindi non tanto l'ultimo chilometro, che insomma è il finale dell'esecuzione, ma quello che è successo prima. Anche perché questo sprint, diciamo, si doveva confrontare con una scelta degli organizzatori che poi andremo a rivedere e che era quantomeno discutibile. Per cui parto un po' più indietro a riguardarla e mi ha colpito molto vederla dai meno 4. Meno 4 quando davanti c'è già la IF che ha fatto un lavoro mostruoso negli ultimi 10 km bruciandosi le gambe. Si vede che l'esercizio della preparazione delle volate un po' gli manca, Vandenberg non è esattamente forse lo sprinter su cui puntare, per cui ai meno 4 loro sono davanti, sono lanciatissimi ma sono già in 3, ci sono ancora 4 km da fare, gli altri se li sono bruciati prima e dunque lanciano con largo anticipo il lavoro che avrebbero dovuto fare più avanti e con questo si fregano le gambe definitivamente. Non ho visto neanche come si è piazzato Vandenberg alla fine. Qui però siamo a parlare della Alpecin e non della IF. Perché sono partito dai meno 4? Perché subito dopo c'è una rotonda, e è una di quelle rotonde dove la strada è aperta da entrambe le parti, diciamo, si può passare di qua o si può passare di là. Il grosso del gruppo passa a sinistra, mentre gli Alpecin ne approfittano, passano a destra, si ricompattano tutti, e quindi cosa succede? Che mentre a sinistra si sgomita per prendere la testa del gruppo, a destra c'è ampio spazio e gli Alpecin in questo momento vanno a costituire quello che è il loro piccolo trenino di 4 corridori che, come andremo a vedere, non si disgregherà mai fino all'arrivo. Finita la rotonda si riaccodano, si va verso i meno 3 quando provano a risalire gli Intermarché al centro e gli Arkea da un'altra parte, entrambi, come dire, attori non protagonisti di questo sprint. C'è una curva, si spezzano un po' tutti i treni, il gruppo si appalla e invece gli Alpecin, e qui se andate a vedere la curva ai meno 3, sono compatti, sono tranquilli, sono disposti in diagonale attraverso il gruppo e mentre tutti si cercano loro sanno esattamente dove trovarsi. Ai 2,5 il gruppo si spezza dietro, davanti invece la volata è davvero lanciata, il trenino della Lotto, quello che porta avanti il gruppo, diciamo, in questo momento, che mena le danze. Dietro al trenino della Lotto c'è una macchia multicolore ancora una volta tagliata da una riga che è grigia, è facile anche da vedere. Partono addirittura dalla 15ª posizione, sono abbastanza indietro e lì si vede di nuovo tutto il trenino dell'Alpecin al completo, pronti, sanno esattamente cosa li aspetta e non sprecano neanche un goccio di energia nello sgomitare davanti, perché un finale così è un finale particolare ed è un finale che potremmo definire uno spezzatreni. E qui veniamo a quello che dicevo in anticipo, no? C'è un disegno particolare, un arrivo di tappa. Io direi come non si disegna un arrivo di tappa da velocisti. Qui c'è un esempio molto chiaro. Perché? Perché la corsa arriva bella dritta da un vialone, che è l'Avenue de la Compagnie sur Couf. Sono andato a vedere, si tratta di una compagnia di trafficanti di schiavi francese, in genere le vie vengono intitolate a questi soggetti. E a un certo punto cambia nome, la strada diventa Avenue Antoine de Saint-Exupéry, lo scrittore del Piccolo Principe, ma anziché imboccare questa strada girano bruschi a sinistra, 90 gradi, è una curva senza senso perché, a meno che non gli stesse particolarmente sulle palle Saint-Exupéry, o a meno che il sindaco di Saint-Germain-Montrond non abitasse giusto lì a sinistra, in Rue de Grand Village, e quindi avesse senso girare di lì, altrimenti dal punto di vista sportivo, anche dal punto di vista della sicurezza, questa curva non ha alcun senso. Fatto sta che dopo questa curva, 50 metri, un'altra curva brusca a destra, poi una curva più leggera a destra e la rotonda in meno 500 in cui Il gruppo gira a sinistra e si rimette esattamente nella via su cui erano, che però ha cambiato nome, in questo caso si chiama Rue Pelletier d'Oisy, che vi posso dire che era un aviatore colonialista francese, ma questa piccola deviazione non serve ad altro che a mettere in crisi il gruppo, a mettere a rischio il gruppo. Non sono successi danni, fortunatamente, anzi è servita per dimostrare chi conosceva perfettamente come muoversi in questo finale di tappa, e come muoversi lo sapevano perfettamente gli Alpecin. Quindi siamo ai meno due, qui c'è il passaggio chiave di fatto, perché la volata, la testa la prendono gli Astana, che però hanno perso Cavendish, si vede proprio che si voltano a cercarlo sia Ball che Morkov. Cavendish è indietro intorno alla 20ª posizione, e quindi quando ci si prepara a entrare in questo finale tortuoso, prima appunto di questa deviazione, gli Alpecin prendono la testa, sono ai meno 1200 circa, e sono sempre esattamente gli stessi quattro corridori, sempre esattamente nello stesso ordine. Dunque, ultimo chilometro, poi questo lo avete visto bene, c'è la Port che prova a disturbarli, c'è Van Aert dietro che ci ho messo un po' a capire chi fosse, con quella maglia che si mimetizzava anche abbastanza bene con quella degli Alpecin, che era a ruota di Philipsen, ma in realtà il trenino dell'Alpecin è già alla perfezione, e dopo l'ultima curva praticamente Van Der Poel parte. Van Der Poel che ha, come dire, è un ruolo naturale quello per lui di lanciare la volata, e c'è un motivo specifico, che Van Der Poel è un velocista vero, poi non fa le volate, ma sarebbe un velocista vero, e lo sappiamo e lo vediamo quando si gioca delle corse in cui deve sprintare, le vince 9 volte su 10, a parte quando parte da fermo, ma questo è un altro discorso. E quindi, a differenza di tanti pesci pilota che vanno in progressione, Van Der Poel è uno che fa una volata vera e propria, fa una volata lunghissima, dalla quale, insomma, Philipsen non ha bisogno di far altro che spostarsi e concretizzarla. È un po' come mi dava l'idea di quei centravanti a cui basta toccare la palla sulla linea per spingerla dentro, quando gli arriva orizzontale sulla linea e la spingono dentro, che tra l'altro credo che sia, cioè sicuramente è l'unico gol che io mi ricordo di aver fatto quando giocavo a pallone da ragazzino alle medie o i primi anni delle superiori, non lo so. La differenza è che per me l'unico gol è stato quello perché ero scarso, mentre Philipsen è una bestia, è un campione che finalizza un lavoro eccezionale fatto alla sua squadra, un lavoro per il quale non ci sarebbe da fare altro che applaudire, e se non avessi il microfono in mano lo farei. Invece vi saluto con Extra Extra e ci risentiamo domani.